It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Take a look at the 5 and 10. Mercoledì 22 dicembre, bentornati di nuovo a tutte e tutti, sempre su Liberi Dentro e su Radio TV, il nostro programma che fa da ponte tra carcere e città e che va in onda tutti i giorni, un'ora al giorno, su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Io sono sempre Caterina, qui con voi insieme ad Antonella. Ciao Antonella, buongiorno. Ciao Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. Oggi tocca a me aprire una casellina, quella del 22, casellina che noi chiamiamo dell'Avvento, per raccontarvi il carcere in maniera un po' diversa. E questa volta abbiamo gli auguri del grandissimo fumettista italiano Leo Ortolani. Ciao ragazzi, sono Leo Ortolani, sono un fumettista, volevo augurarvi buone feste con un disegno. Ecco, mentre Leo Ortolani disegna qualcosa che vedrete comporsi in questo momento, per coloro che ci stanno soltanto ascoltando per radio vi racconto cosa sta disegnando. Sta disegnando il suo personaggio, che è Ratman. Vi ricordate, no? Quella serie di fumetti editi da Panini Comics già nel 1996, che poi sono usciti per almeno 30 anni, con queste copertine sgargianti raffiguranti un topo dalle orecchie gigantesche. Ebbene, erano le storie dell'eroe comico Ratman, nato proprio dalla matita di Leo Ortolani, una saga arrivata, pensate, fino al 122esimo numero. Il personaggio nasce un po' come parodia dei supereroi americani, anche il nome stesso ricorda un po' Batman, ma nel tempo si è sviluppato in maniera autonoma. È un personaggio maldestro, imbranato, che decide di diventare un supereroe per via della grande ammirazione che ha per i vecchi uomini in calzamaglia. Buone feste da me e da Ratman. Ciao. Anche se non possiede affatto nessun superpotere e finisce spesso per combinare solo dei guai, quindi una saga veramente divertentissima. Grazie, Leo. Ma passiamo subito alle notizie di oggi. La svolta nelle carceri: chi sconta la pena all'esterno supera il numero dei reclusi. Lo leggo dalla penna di Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera. Una notizia interessante questa, perché a fronte dei quasi 500.000 reclusi in Italia, di cui il 30% in attesa di giudizio definitivo, ci sono, e questa è una rilevazione al 31 ottobre di quest'anno, quasi 67.000 persone che usufruiscono di misure alternative o sostitutive della pena detentiva o della messa alla prova che sospende per l'appunto il processo. In sostanza, e questa è una bella notizia, ci sono più imputati e condannati fuori che dentro le prigioni. Un modo questo per allentare la morsa del sovraffollamento carcerario, ma soprattutto per citare la nostra ministra della giustizia Marta Cartabia, che ricorda spesso il carcere non è soltanto punitivo, ma deve essere, cioè, la valenza rieducativa della pena. E Caterina, se mi permetti di fare una piccola osservazione, aprire le porte dei penitenziari in realtà favorisce il recupero più che tenere le persone rinchiuse. E ce lo dimostrano i dati, in realtà. Sì, lo dimostrano non solo i numeri dell'esecuzione esterna, ma anche le revoche per violazione delle prescrizioni o per altri motivi, che sono poche ma in costante diminuzione. Ma cerchiamo di vedere velocemente i dati della popolazione non detenuta. Di queste 67.000 persone, la quota maggiore è quella di chi sconta la pena con misure alternative, ovvero affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà. Si tratta per lo più di affidamenti in prova, che per 2/3 di persone che hanno evitato il carcere. Gli altri, quasi 6.000, hanno invece trascorso la prima parte in cella o ai domiciliari e, giunti sulla soglia residua dei 4 anni, sono potuti uscire. Caterina, ma che mi dici di chi sconta la pena con la messa alla prova? Guarda, la seconda grossa fetta dell'esecuzione esterna è proprio quella della messa alla prova, che in Italia è composta da circa 23.000 persone. Si tratta di un percorso riparatorio e risarcitorio consentito a imputati di reati di scarsa entità, che sospende il processo e, se va a buon fine, addirittura estingue il reato. In questo modo le persone possono ricominciare la propria vita senza passare da una condanna. Si tratta di provvedimenti che hanno visto una crescita esponenziale negli ultimi anni e che per la metà riguardano persone almeno sotto i 40 anni e quindi è ai giovani che si cerca di evitare di entrare nel circuito penale, giovani che commettono per lo più il reato di violazione del codice stradale. Infine, nella popolazione dei condannati non detenuti vanno conteggiati anche i 4.500 circa in libertà vigilata e i 112 che usufruiscono della semidetenzione o della libertà controllata. Ma dopo questi dati, che sono buoni perché significa che l'Italia si sta muovendo verso un percorso di misure alternative e di trovare i modi per non tenere le persone in gattabuia ma farli fare lavori socialmente utili, che è una notizia buona, una canzone con Zucchero, Freedom, e ci rivediamo tra pochissimo. Forse mai come vuoi, trattenerti non potrei, mi dispiace sai, la verità. E rieccovi, bentornati dopo la pausa musicale. Siamo con te, Antonella, notizie che ci parlano di ambiente e società. Parliamo di un'alternativa alla plastica, cosa mi dici? Eh sì, ti dico che l'alternativa alla plastica potrebbe essere addirittura il lino. Sai, quello delle camicie belle, fresche, estive, delle lenzuole, eccetera. Grazie alla tecnologia L'Incredible, o Ring L'Incredible, non so come la vogliano leggere in realtà, se alla francese o all'inglese, le reti per la frutta e la verdura hanno le stesse performance della plastica, ma è ridottissimo impatto ambientale, quindi possono essere realizzate queste reti proprio con tessuti provenienti dal lino. Che poi il lino sia una fibra tessile nobile, lo sappiamo appunto, che vanti anche la rara capacità di coniugare la bellezza estetica, prima ti dicevo delle camicie per dire, durevolezza e basso impatto ambientale, anche questa è cosa nota. È leggero, è traspirante, si presta alla perfezione per appunto l'abbigliamento estivo, ma anche per altre cose. Ci stanno lavorando adesso e lo vogliono usare appunto per il packaging alimentare. E questa idea può sembrare strana, incredibile, forse anche bizzarra, però è diventata una realtà ultimamente ed è merito del linificio e canapificio nazionale che tra l'altro ha 150 anni di esperienza nella filatura di lino e canapa e la Cuco International Packaging, un produttore bolognese di packaging flessibile con la consulenza dell'Onlus Marivivo. Ci sono voluti 3 anni di studio ed esperimenti vari, ma il risultato è stato raggiunto e si chiama appunto l'Incredible. Beh, è un'ottima notizia, ha anche un carattere un po' locale perché mi dici bolognese, per cui è assolutamente importante, è una notizia importantissima per l'ambiente questa. Sì, sì, è importantissima per l'ambiente, per la città ovviamente, perché bisogna ridurre drasticamente il consumo di plastica usa e getta fondamentalmente. È una necessità e anche un indirizzo, se vuoi, dell'Unione Europea, che con la direttiva che ha bandito la vendita di cotton fioc, posate, cannucce e altri oggetti, è una strategia che prevede che entro il 2030 tutti gli imballaggi di plastica possano essere riciclati o riutilizzati a costi accessibili. E nonostante l'attenzione a questo tema, che ormai è diventata notevole, altissima, a volte è difficilissimo lasciare il monouso. Al supermercato, per esempio, si finisce inevitabilmente per mettere nel carrello le patate, le cipolle, le arance, i mandarini, a volte nella classica retina di plastica, sai, quello un po' arancione, rosso, eccetera. E di spesa in spesa i numeri però si fanno rilevanti. In Italia ogni anno si acquistano circa 250 milioni di confezioni di teste d'aglio, per dirti, e 20 milioni di sacchi di patate, per un totale di circa 11.000 tonnellate di plastica. E da questa considerazione ha preso il via appunto l'opera di ricerca e di sviluppo che ha portato poi all'Incredible, questa rete per frutta e verdura costituita solo in lino. E le performance sono identiche rispetto a quelle della rete in plastica, ma ovviamente i vantaggi ambientali sono tangibili, perché il lino è una fibra naturale, non ha nulla a che vedere con il petrolio ed è biodegradabile a fine vita. Io non l'ho ancora vista in giro questa produzione, però ti chiedo se è già in distribuzione. Allora, guarda, in realtà è già in distribuzione in Francia e Germania, con l'auspicio poi di arrivare presto anche da noi. E per la sua versatilità il tessuto può essere anche un valido sostituto della plastica per altri tipi di imballaggi, come appunto le finestre trasparenti dei sacchetti di carta. Sai che a volte i pacchi di pasta hanno o anche i biscotti hanno quella parte in plastica, cartone plastica. E i rinforzi interni delle confezioni di carta copre i cassetti delle cassette di frutta e verdura, e sono già in fase di sperimentazione le prime reti per la pesca, penso un po', e l'allevamento e la vendita di mitili. Tutto questo senza bisogno, tra l'altro, di stravolgere le catene produttive, visto che reti e filati in lino possono essere utilizzati dagli stessi macchinari industriali che finora hanno confezionato gli oggetti con i materiali plastici. Secondo me questa è veramente la strada vincente. Però lasciamo questo mondo, il mondo dell'ambiente, per tornare dal nostro tricarico e la sua canzone Solo per te. Però non ci lasciate, perché dopo c'è la seconda parte dell'intervista a Suora Elisabetta Stocchi del Centro Asteria da parte di Caterina. Che non mi ha mai chiesto niente, mula paglia, perché non mi ha mai chiesto niente, mula roccia, perché non mi ha mai chiesto niente, giglio, perché non mi ha mai chiesto niente, mula coniglio, perché non mi ha mai chiesto niente, il fuoco, perché non mi ha mai chiesto niente, il vento, perché non mi ha mai chiesto niente, amo il rubino, perché non mi ha mai chiesto niente, perché non te ne importa niente, perché non me ne importa niente, ma io cosa ho chiesto, quando ti ho visto, a te, che mi hai guardato, e poi mi hai detto, per te, solo per te. Amo il cotone, perché non mi ha mai chiesto niente. Amo il gatto, perché non mi ha mai chiesto niente. Amo le alghe, perché non mi ha mai chiesto niente. Amo la terra, perché non mi ha mai chiesto niente, i fili d'erba, perché non mi ha mai chiesto niente, il pesciolino, perché non mi ha mai chiesto niente, amo il pane, perché non mi ha mai chiesto niente, amo gli alberi, perché non mi ha mai chiesto niente, perché non te ne importa niente, perché non me ne importa niente. più visto a te, a te. E mi hai guardato e poi mi hai detto per te, solo per te. Torna i figli, l'amore, la vita con te. E rieccovi, bentornati, sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Come sapete già da ieri, l'ospite che ci accompagnerà tutta la settimana è Suora Elisabetta Stocchi del Centro Astaria di Milano. Ciao Elisabetta, bentornata. Grazie, grazie a tutti, grazie anche della partecipazione di ieri. È un piacere averti su Liberi Dentro di Radio, conoscerti e conoscere quello che fate col Centro Astaria di Milano, di cui già ci hai raccontato ieri come nasce, lo spirito anche, che la mission che vi muove, che è una mission educativa. E proprio su questo, siccome voi vi occupate di offrire formazione didattica e educativa anche agli insegnanti e ai genitori e agli educatori, volevo chiederti come realizzate tutto questo e se avete qualcuno a cui vi rivolgete per farvi aiutare, se riuscite a fare rete sul territorio milanese per riuscire a realizzare il vostro grandissimo obiettivo. Sì, beh, come dicevo un pochino ieri, noi tra l'altro lavoriamo su due livelli, con due programmazioni parallele. Praticamente una che va sul culturale sociale, per cui è il nostro municipio 5, quello con il quale ci interfacciamo. Tra l'altro un municipio molto attivo, molto vivace, che ha un suo tavolo sociale, per cui dove ci incontriamo, che prende a fuoco i minori, gli stranieri, i disabili, gli anziani. E in questi tavoli dove le varie associazioni del territorio si confrontano, danno poi delle prospettive condivise e riescono per cui a creare una rete invisibile ma molto interessante, affinché non ci siano sovrapposizioni, ma veramente si possa valorizzare al massimo le risorse di ogni realtà. E c'è quella, diciamo, dimensione più formativa, culturale, formativa, educativa, che, come dicevo appunto ieri, è diventato un po' il cuore, il centro, la progettualità, dalla quale poi si irradia tutte le altre progettualità, diciamo, satellite a questa. E nasce, come appunto accennavo ieri, da questa intuizione di Suor Bianca, condivisa poi l'ottavo, le prime edizioni veramente abbiamo realizzato una piccola brochure, siamo andati a bussare alle porte delle scuole pubbliche, parliamo di più di 20 anni fa, per cui potete immaginare due suore con una borsetta che arrivano in una scuola pubblica, era veramente una cosa incredibile. Eppure l'idea è stata un'idea che ha incrociato un bisogno. E l'idea è stata questa, un progetto che si rinnovasse ogni anno, che potesse rispondere alle domande dell'oggi, alle domande dei giovani dell'oggi, che lo facesse attraverso che cosa? I diversi linguaggi, per cui le conferenze, le testimonianze, che sono potentissime, le testimonianze, e le rappresentazioni teatrali, il cinema. Questi linguaggi al servizio di che cosa? Delle discipline curriculari, per cui noi interroghiamo la storia, la filosofia, la letteratura, l'educazione alla cittadinanza, la scienza, adesso l'educazione ambientale, la spiritualità. Attraverso appunto questi linguaggi interroghiamo queste discipline e con questo sfondo creare nei giovani delle domande di senso, per farli diventare protagonisti della loro vita, attivarli quel sano senso critico che hanno, che rischia di rimanere appiattito magari anche dalle stesse, diciamo, studio, che se non è diciamo rilanciato in un modo un po' provocatorio, sì, diventa mnemonico, diventa emozionistico, ma non arriva a cambiare la consapevolezza di chi sono io. E invece gli autori, gli scrittori, i poeti, gli scienziati portano dentro una riuscita, un desiderio di comunicare che è enorme, e riuscire a farlo rivivere in un contesto che è uscire fuori dalla classe, arrivare in un luogo preposto per la cultura, per cui in un teatro, insieme ad altri compagni, i tuoi compagni, ma altri che non conosci di altre scuole, e essere introdotti all'argomento da un esperto. E anche qui il nostro intento era quello di essere molto attenti a non dare mai cose superficiali, a trovare relatori che non fossero soltanto degli esperti, ma dei testimoni, che dentro la loro scelta, che è una scelta vocazionale anche quella, mano a mano scoprissero la bellezza dell'opportunità dell'essere scienziato, poeta, scrittore, storico. Ecco, allora, gli eventi sempre introdotti da persone competenti, che al termine della rappresentazione teatrale, insieme all'attrice, il regista, la regista, tornassero lì sul palco per aprire un dibattito, un confronto. E lì per noi è stata una rivelazione che già conosceva, cioè che i ragazzi sono meravigliosi. Su questo, Elisabetta, che rischi può correre, siccome voi avete creato un bisogno andando a bussare a queste scuole pubbliche con la vostra valigetta, dicevi, proponendo appunto una proposta, no, formativa, educativa, che rischi corre una società che non mette al suo centro la formazione dei giovani, secondo te? Rischia tantissimo, rischia di una regressione su quello che è una grande conquista, che è la democrazia, la possibilità di parola, la libertà che ognuno di noi ha nel stare dentro la società stessa, ma quella invece di rimanere schiacciati da non chiare, non potenze, non, probabilmente non ci saranno più totalitarismi come in passato, ma rimanere comunque schiacciati, succubi come società, di interessi sovranazionali, sovra interessi economici, interessi politici di pochi, che ci tengono praticamente in uno stato di, direi, di sopravvivenza. Tornando, il panorama dei giovani, abbiamo un polso interessante, direi. Ecco, le domande che fanno Caterina sono eccezionali. Sono di una profondità, di un'intelligenza, di una voglia di capire, così pertinente ad argomenti che non sono argomenti banali o facili da comprendere, ma sono sempre, appunto, perché voglio essere di supporto alle materie curricolari, di un respiro più ampio, con delle domande di provocazione. Bene, ci stanno alla grande, sono eccezionali, per cui bisogna assolutamente impegnarci tutti, perché ognuno di noi, ogni persona, ogni adulto ha dei contenuti forti da dare, ha un'esperienza forte, ha delle vittorie, delle sconfitte, ha una sua storia. Ecco, queste storie, i ragazzi davanti alle storie, alle storie lette personalmente con senso critico e in verità, sono maestre di vita eccezionali. Allora ti chiedo proprio a proposito dei progetti che sostenete, che fate, se c'è uno di cui sei particolarmente fiera e di cui ci vuoi raccontare in un minuto, ecco. Allora, come dicevo, sì, ce n'è uno, ce ne sono tanti, perché poi è molto creativo la storia. Io sto parlando del progetto Cuore, ma pullulano di tante cose, che anche la ricerca anche di fondi, perché poi per poter fare alcune progettualità, soprattutto quelle sul sociale, bisogna trovare anche qualcuno che aiuti la realtà. Però è quella che riusciamo ormai da anni, in modo continuativo direi quasi, a realizzare nella nostra scuola pubblica di quartiere. Come dicevo, il quartiere Stadera, lo dicevo nell'altra puntata, è un quartiere con delle sacche di povertà molto forti negli anni 50, 60, 70, 80, 90 erano soprattutto gli immigrati dal sud, adesso ci sono nuove immigrazioni, una scuola che ha più del 45% di stranieri, bambini stranieri. Bene, lì riusciamo a creare dei percorsi, dei laboratori legati alla musica, alla danza, allo sport. Beh, lo sport è più facile, veicola e unisce subito, ha dei valori universali incredibili. Però la musica e la danza, il teatro, sono un po' diversi. E la cosa meravigliosa è che i nostri insegnanti che vanno nelle scuole gratuitamente, con questi bambini di tante etnie diverse, lavorando con loro, riescono a creare dei prodotti culturali nuovi, completamente nuovi, che sono un meticciato delle diverse provenienze di tutti questi bambini. E questa è una cosa interessante. Dice, beh, bello, cosa fanno? Nuove musiche, nuovi ritmi, nuove storie, o storie che si incontrano, storie delle tradizioni diverse. Bene, ma la cosa più bella, per cui mi commuovo sempre, è quando vedo i genitori stranieri, solitamente vanno soltanto alla scuola per avere delle informazioni sul scolastico, sulla resa. Invece si trovano in un posto alto, in un teatro. Alcuni di questi bambini non hanno mai visto un teatro, magari di 7, 8 anni, 10 anni, non sono mai entrati in un cinema. Si trovano in un teatro, invece, a questi genitori, per la prima volta, gomito a gomito, con il genitore italiano, il filippino, l'africano, l'etiope, l'egiziano. E sono lì per i loro figli e vedono i loro figli praticamente lì sul palco con questa novità di vita. Grazie Elisabetta, anche oggi ci hai raccontato tantissime cose e domani parleremo di futuro, perché è importante, parliamo di istruzione, ma ovviamente l'istruzione è per il domani, no? Quindi l'argomento di domani sarà questo. Ci salutiamo a fine puntata, seguiteci sempre tra pochissimo per i saluti di fine puntata. Ciao, grazie. Grazie a tutti, arrivederci. Siamo giunti anche oggi ai saluti di fine puntata, vi ricordiamo la nostra rubrica a seguire, come al solito ogni mercoledì con l'ASL di Bologna, il nostro partner del progetto Liberi Dentro di Radio TV, e questo speciale di Natale è dedicato ai vissuti emotivi, ebbene sì, perché quando ci si occupa di salute ci si occupa a tutto tondo della salute della persona, quindi i vissuti emotivi legati al periodo festivo. Ascoltatela, scriveteci, redazione Liberi Dentro, @gmail.com e come al solito un saluto da me che sono Caterina D'Antonella Cortese e da Enea Flacco e Diana Bota. Ciao, a domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.